in primo piano. Venerdì 8 aprile, certamente l'immigrazione conquista le prime pagine dei giornali, nei titoli di apertura, mentre l'altra notizia ancora rimane la questione di Generali. Il piano di Mediobanca, così apre il Sole 24 Ore, oggi tra l'altro dovrebbe esserci la nomina, ci sarà la nomina del nuovo presidente dei Generali dopo le dimissioni di Geronzi. Ma vediamo appunto come si pone la questione immigrazione, soprattutto la crisi Italia-Francia, così titola il Corriere, migranti, crisi Italia-Francia, per Repubblica immigrati, guerra, Parigi-Roma, per La Stampa immigrati, scontro Italia-Francia, Libero, la Francia abbaia, l'Italia non morde, per Il Messaggero profughi, lite con la Francia, Avvenire invece titola scarica barile sui migranti. E addirittura per Il Riformista il presidente francese messo in foto è Sarkozy. No. Perché? Perché la Francia, appunto, di fronte alla decisione italiana di dare i permessi di soggiorno temporaneo che possono permettere di viaggiare nell'area Schengen, ha detto: a noi questi permessi non vanno bene. Ha posto il governo francese delle controcondizioni per poter ospitare. Io ve l'avevo detto ieri, E poi, insomma, non è che ho la sfera di cristallo, ma si capiva che sarebbe andata così, che l'Italia avrebbe dato questi permessi e Parigi avrebbe fatto di tutto per non accettare queste persone. Sarà anche questo uno dei temi della diatriba Italia-Francia che tratteremo in questo speciale dalle 8.20 alle 10. Da cosa voglio partire come segnalazioni? La prima dal Corriere della Sera, a ampio risalto anche in prima pagina. Prescrizione per i banchieri dello scandalo Parmalat, beffati 80.000 risparmiatori. Dal 18 aprile è una vicenda annosa, anche complicata, la spiega lo stesso Corriere all'interno con Massimo Sideri a pagina 28. L'ultima beffa del caso Parmalat, la prescrizione blocca i risarcimenti. La vicenda inizia nel dicembre 2003 col rocambolesco oscuro viaggio di Calisto Tanzi in Ecuador. Per la Parmalat ormai non ci sono più speranze, poi c'è l'arresto, il crack spaventoso da 14 miliardi, il paracadute della Marzano Bis. Ebbene, scrive il Corriere, aprile 2011, il 18 per l'esattezza, segnatevi questa data, le banche potrebbero non pagare, per 80.000 di quei risparmiatori si potrebbero chiudere l'ultima finestra per sperare nei rimborsi. La questione è complessa, si tratta di termini di prescrizione, perché il 18 aprile è attesa la sentenza di primo grado nel processo per aggiotaggio presso il Tribunale di Milano contro le banche Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley, 5 manager degli istituti esteri, e nel caso di aggiotaggio la prescrizione del reato per le persone fisiche scatta dopo 7 anni e mezzo, cioè tra poche settimane. E allora sono per il Corriere appunto a rischio 80.000 risparmiatori, ed è questa l'ultima beffa del caso Parmalat. Dopo la sentenza di primo grado, infatti, nel caso di aggiotaggio, scrive il Corriere, la prescrizione del reato per le persone fisiche scatta tra poche settimane e il rischio beffa per chi seguiva il processo sperando nella giustizia. La seconda segnalazione la trovo sulla Stampa e anche sul Giornale, vi dedica un'intera pagina entrambi i quotidiani, la leggo dal Giornale: il sindaco 007 sulle tracce del DNA dei cani. Succede tutto a Capri, nella splendida cornice dell'isola di Capri, note di costume italiano, il sindaco Ciro Lembo lancia la crociata contro lo sporco dei cani, proprio quello sporco che sta sui marciapiedi e molto spesso andiamo a calpestare in un tripudio di invocazioni celesti, racconta Cristiano Gatti. E che cosa ha fatto il sindaco? Sempre più deciso a tenere pulita l'isola di Capri, ha ordinato che tutti i cani si sottopongano a un prelievo di sangue, così da creare una banca dati biologica e nessuno possa più sfuggire alle proprie responsabilità, con multe da 25 a 1.500 euro. Tra l'altro viene anche intervistato il sindaco Ciro Lembo, che dice: abbiamo applicato una legge regionale che obbliga i proprietari dei cani al controllo della smaniosi canina. L'esame del DNA lo abbiamo aggiunto noi, in accordo con l'ASLA di Napoli, sarà tutto gratuito, bastano 2 gocce di prelievo per studiare il DNA, risalire ai cani maleducati attraverso gli escrementi lasciati nelle strade dell'isola e non raccolti dai padroni. Il sindaco, che ha di fronte alla domanda: ma è davvero necessario tutto questo? Dice: In passato è successo che turisti o residenti siano scivolati sui bisogni lasciati dei cani, procurandosi contusioni, e altri ci hanno rimesso scarpe e indumenti. Capirà, qui la gente va in giro con abiti firmati che valgono un occhio della testa. E allora salviamo. La crociata per salvare gli abiti firmati di Capri. E allora la questione immigrazione, mentre abbiamo ancora negli occhi, abbiamo l'eco nelle orecchie di quella che è la tragedia avvenuta 2 giorni fa al largo di Lampedusa, con questo barcone, probabilmente 250 vittime di persone, di migranti che cercavano, vedevano nell'Italia, nelle coste italiane, un approdo verso un futuro migliore. E beh, con l'eco di tutto questo sullo sfondo, ci sono questi suoni di guerra vera e propria, guerra diplomatica, guerra di dichiarazioni tra Italia e Francia. Sui permessi, scontro con la Francia. Così titola pagina 15, Sole 24 Ore. Parigi avverte: li respingeremo, e Berlusconi: non si sottraggano agli accordi di Schengen. La vicenda, detta in estrema sintesi, è questa: l'Italia ha deciso, dopo la politica del fora di Baldi, Bossi, di cedere, invece dire ok, diamo, in base alla legge Bossi-Fini, permessi di lavoro, di permessi di soggiorno temporanei di 3 mesi, 6 mesi alle persone in Italia, lo consente la legge, perché così possono circolare liberamente nell'area Schengen. Vogliono andare in Francia? Così potranno andare in Francia. La Francia ha detto: eh no, furbini, così non si fa, cara Italia. E quindi la Francia ha posto subito, con una circolare mandata dal Ministero dell'Interno a tutti i prefetti francesi, 5 condizioni per poter accettare questi immigrati. Cioè, avranno anche il permesso di temporaneo di soggiorno, ma devono avere 5 condizioni, queste, per entrare in Francia: essere muniti di un titolo di viaggio valido, essere muniti di un documento di soggiorno in corso di validità, dimostrare di disporre di risorse sufficienti, 62 euro al giorno a persona, 31 se dispongono di un alloggio, non costituire una minaccia per l'ordine pubblico, non essere entrati in Francia da oltre 3 mesi. In mancanza di questi requisiti, la Francia ha detto: li riaccompagniamo in Italia. Ovviamente le tensioni sono enormi. Il ministro dell'Interno Maroni ha detto: allora escano da Schengen i francesi se vogliono mantenere questa linea. Oggi a Milano, in un incontro che era già programmato, ma in un incontro che a questo punto si preannuncia anche abbastanza carico di tensione, si vedranno il ministro degli interni Maroni e il ministro degli interni, lo suo omologo Claude Guéant, francese. E insomma, è uno degli aspetti di questo scontro. Uno degli ultimi scontri finanziari, ricordate la vicenda Lactalis, il caso Parmalat, scontri anche adesso sull'immigrazione, qualcuno ricorda anche gli scontri giudiziari, il Corriere della Sera per il caso Cesare Battisti, qualcun altro si spinge oltre, ricorda anche gli scontri sportivi, no? La famosa testata di Zidane a Materazzi. Insomma, con i cugini francesi ogni tanto andiamo d'amore d'accordo e ogni tanto no. Ecco, questo è uno dei momenti in cui non si va proprio d'amore d'accordo. Tra l'altro Berlusconi, secondo Repubblica, pagina 3, dice: il governo è pronto alla prova di forza con l'Unione Europea, ci aiuti o non controlleremo più i confini. Effettivamente resta da capire, ma insomma, questa Europa dov'è? Questa Europa dov'è di fronte a questa situazione di emergenza? In questo caso sembra che l'Italia sia un po' abbandonata a se stessa come paese di frontiera ad affrontare questa situazione. Interviene anche in un'intervista al Messaggero, a pagina 4, il ministro degli esteri Franco Frattini, che dice: Sarkozy fa il duro, ha il problema di Le Pen. La Francia ha con noi legami indissolubili, storici, geografici, culturali. In questo momento però in Francia ha notevole peso la dinamica interna e il fatto che Marine Le Pen, leader di una destra xenofoba, arrivi a insidiare le posizioni dei più accreditati candidati alle presidenziali, a cominciare da Sarkozy e dai leader della sinistra. Così la vede Frattini, mentre l'ex direttore di Le Monde, Jean-Marie Colombani, grande firma del giornalismo francese, saggista, dice in un'intervista alla Stampa: sbaglia la Francia, il ministro Guéant, francese dell'interno, è solo un portavoce di Sarkozy, è una posizione, quella degli immigrati in Francia, assolutamente sbagliata, è un'ossessione sbagliata da parte di Parigi. E però il dato di fatto è questo. Tra l'altro è molto efficace Iena, sempre sulla Stampa: Oggi a pagina 3, principi, liberté, égalité, ostilité. Questo Iena oggi sulla Francia riassume benissimo lo stato dei rapporti tra Roma e Parigi. Tra l'altro, attenzione, colgo una chicca, permettetemi una chicca anche scherzosa sulla stampa sempre, perché Sarkozy è uno che quando gli girano i 5 minuti pare che alzi il telefono e ne combini di parecchie. Sentite per esempio cosa racconta la stampa a pagina 17 quando un giornalista, Patrick Besson del settimanale Le Point, quando si stavano sposando Sarkozy e Carla Bruni, e questo Patrick Besson si pensò bene di dare dei consigli al presidente francese dicendo: guardi, non presenti sua moglie, la sua futura moglie, ai suoi figli o a Barack Obama o a qualche bel ragazzo. Insomma, presentò Carla Bruni come una che è incline anche alla seduzione, a farsi sedurre dai begli uomini. Sarkozy alzò il telefono con questo giornalista per dirgli: questo articolo è una carognata per cui ti dovrei spaccare la faccia. Al che Carla Bruni avrebbe strappato la cornetta a Sarkozy dicendo: scusatelo, scusatelo, Nicolai è così innamorato, non sopporta che si scrivano queste cose sul mio conto. Però insomma, Nicolas Sarkozy è uno che, come dire, appunto, attenzione a non fargli venire i 5 minuti perché non ci pensa due volte. Vabbè. Ci sono anche molti racconti che vedremo di davvero quello che è la tragedia avvenuta al largo di Lampedusa. Oggi il Corriere della Sera, ancora con Felice Cavallaro, racconta della missione della Guardia di Finanza con un elicottero che ha sorvolato per cercare sopravvissuti che non ci sono, di quella immane tragedia avvenuta al largo di Lampedusa, con anche fotogrammi di cadaveri che affiorano tra i flutti del mare e poi scompaiono. È davvero una tragedia immane. E tra l'altro da qui partiremo in questo speciale che io voglio ricordare, dalle 8:20 alle 10 ci sarà anche Oscar Giannino, parleremo di immigrazione, perché di immigrazione purtroppo si può morire, di immigrazione vediamo si può anche litigare come fanno tra Italia e Francia, di immigrazione si può anche perdere la testa come quel deputato che ha messo il cartello in Parlamento, Maroni assassino. A proposito di Parlamento, vabbè, giornata francamente noiosa. Di che cosa si è parlato? Di processo breve, di processo lungo, di prescrizione breve, di prescrizione lunga, di queste cose qua molto molto interessanti, no? Molto pregnanti, molto molto seguite con molta passione da tutti gli italiani, ne sono certo. La giornata si registra soprattutto per la scena dell'onorevole Corsaro, ex DAN, che fa litigare il PDL, ha fatto un intervento nel quale ha evocato contro i magistrati: c'è voluto il rapimento e l'uccisione di Moro perché si smettesse di dire che le Brigate Rosse erano sedicenti ma che erano parte integrante della cultura della sinistra. Questo cito l'onorevole Corsaro. Lo strabismo di certe toghe ha consentito di scappare a personaggi come Achille Lollo, a Cesare Battisti, ha impedito che fosse fatta giustizia per i fratelli Mattei, Mazzola, Giralucci, Sergio Ramelli. Al che insomma è successo il pandemonio oppure ciò che succede quasi quotidianamente alla Camera. Servo, vergogna, una rissa, non ti consentiamo di deturpare la memoria di Borsellino, quando ha citato anche Paolo Borsellino. A un certo punto Ferdinando Adornato: non confonda Aldo Moro con Lele Mora. Tutto questo sempre al Parlamento. Corsaro in un'intervista a Repubblica dice: se aveste avuto la prudenza di leggere la frase completa nella quale citavo Aldo Moro, no? Come dire, non siete qui a criticarmi. Lei è accusato di essere un fascista. E dice: mi colpisce la disattenzione con la quale gli amici commentano liberamente un pensiero ridotto a due parole. Ma lei non ha avuto il senso della misura, chiede Antonello Caporale di Repubblica. Invece sì, contestavo l'adesione a critica di Futura Libertà a tutta la magistratura. E poi ridurmi al silenzio? Mai! L'attacco giudiziario nei confronti di Berlusconi è senza pari. E dice Caporale: beh, ma anche la vostra attività è senza freni, dobbiamo mettere in sicurezza un valore politico. La messa in sicurezza sembra la protezione civile, Berlusconi, bisogna tutelarne l'integrità politica. Questo è l'onorevole Corsaro che ieri ha avuto insomma il suo momento di gloria in Parlamento. A proposito di politica, segnalo due articoli più interessanti a pagina 16 del Corriere. Troppe assenze nel PD, rimpianti e sospetti. Nella straordinaria seduta, quella in cui si è parlato ieri, lo leggevamo, del Lardo di Colonnata, del Sagrantino di Montefalco, dello Zafferano di Cascia, dei Fagioni di Scaroni, di tutta una serie di prodotti, no? E si parlava di processo breve, per la verità. La verità è che Maria Teresa Meli racconta di come il PD in varie votazioni, ci fosse stato tutto, avrebbe mandato sotto la maggioranza, perché varie volte provvedimenti della maggioranza sono passati con 298 deputati, 289 eccetera, e ci fossero stati tutte le posizioni, sarebbero arrivate a 302. Insomma, per farla breve, scrive il Corriere, almeno 5 o 6 volte le opposizioni avrebbero potuto battere la maggioranza, sempre che si fossero presentate compatte e non assenti in Parlamento. Il secondo articolo è da pagina 3 del Fatto, dove il Fatto Quotidiano lo mette anche in prima pagina. Si accusano sia il ministro La Russa sia il ministro Calderoli di avere utilizzato impropriamente voli di Stato. Illegittima difesa, La Russa allo stadio con il volo di Stato. Gianni Barbacetto racconta di come La Russa, secondo il Fatto, sia andata a vedere la disfatta dell'Inter contro lo Schalke 04 in Champions League a Milano, atterrando alle 18.30 e ripartendo alle 23 con un volo dell'aeronautica militare identificativo MM62210. E sotto a pagina 3 sempre l'accusa riportata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, quello di Beppe Grillo, in Piemonte, secondo il quale Roberto Calderoli avrebbe fatto una sosta, un viaggio lampo di 3 ore a Cuneo il 19 gennaio di quest'anno, con a bordo di un Airbus dell'aeronautica militare, per fare una toccata e fuga di 3 ore. Che ci faceva Cuneo? Beh, ricorda il Fatto che la compagna di Roberto Calderoli è la presidente della provincia di Cuneo, la presidente Gancia, e quindi Stefano Caselli e Chiara Paolin dicono: eccola qui, e ha fatto una toccata e fuga a bordo di un aereo militare nella città della sua compagna. Va bene, questi insomma gli articoli più interessanti di politica sono questi oggi, vedete un po' voi. E allora ci sono ancora tanti articoli, tanti retroscena, tanti commenti che vi invito a leggere, qualcosa ho selezionato sulla vicenda Generali. Dopo le clamorose dimissioni di Geronzi, certo contestato da gran parte degli azionisti, però insomma le dimissioni improvvise ieri del presidente di Generali, ecco che la svolta della maggiore compagnia assicurativa italiana, che è anche il maggiore centro di potere economico finanziario del paese, si sta profilando. Allora, il piano di Mediobanca, così titola il Sole 24 Ore in prima pagina, tra l'altro a pagina 3 si racconta di come sia abbastanza data per certa la nomina oggi del sostituto di Geronzi dopo l'interim molto breve di Caltagirone, vale a dire sarà molto probabilmente Gabriele Galateri di Genola. Galateri a un passo dalla presidenza, così titola pagina 3 il Sole con l'articolo di Marigia Mangano. Ieri gli ultimi incontri tra i soci per sciogliere le riserve alla vigilia del Consiglio delle Generali. Chi è Galateri? C'è già un ritratto di Paolo Bricco a pagina 3. Appartiene a un'antica famiglia piemontese, una nobiltà di provincia che da Savigliano vicino a Cuneo ha dato generali all'esercito e funzionari alla monarchia. Non importava che la dinastia regnante fossero i Savoia o gli Agnelli. Se lo si dimentica, è difficile capire il profilo di un uomo che si muove negli uffici della finanza e dell'industria con la riservatezza e la buona educazione di un diplomatico. Laureato alla Columbia University, negli anni 70 arriva al Banco di Roma, successivamente direttore finanziario del gruppo Saint-Gobain in Italia a Parigi, entra in Fiat nel 77 chiamato da Romiti come responsabile del settore finanza estera, amministratore delegato dell'IFIL nell'86 e poi insomma tutta la carriera fino all'attuale nomina. Prima presidente di Mediobanca e poi dal 2007 presidente di Telecom Italia in sostituzione di Pasquale Pistorio. Questo insomma un breve ritratto di Galateri di Genola, che dovrebbe essere nominato oggi appunto a capo di generali. Ma poi dicevo in retroscena, bene, ho selezionati due articoli interessanti a modo di vedere. Il primo è un retroscena su Repubblica, firma Claudio Tito, che è uno che segue sempre da vicino le vicende del presidente del Consiglio Berlusconi. La controffensiva del Cavaliere. Io non vorrei essere nei panni di chi ha vinto mercoledì scorso. La vittoria si vede alla fine e i vincitori ancora non ci sono. Questa frase virgolettata è attribuita al Premier, a Silvio Berlusconi, consapevole, scrive Tito, che si tratta di una svolta epocale. L'uscita di Cesare Geronzi dalla scena delle generali stravolge gli assetti della finanza italiana, ma intacca anche il sistema di potere che il Cavaliere negli ultimi anni ha costruito tessera dopo tessera insieme al banchiere di Marino, vale a dire Geronzi. Una svolta che il Premier non può accettare. Tra l'altro il titolo è questo dell'articolo: l'ira del Premier, io tenuto all'oscuro, e ora prova a organizzare la controffensiva. Ed ecco quindi che Claudio Tito dice: il Cavaliere sta studiando le contromosse perché è in gioco un blocco di potere che può determinare gli equilibri politico-istituzionali dei prossimi due lustri. Non è un caso che ieri sia scattata la prima dislocazione delle truppe. Il Premier e lo stesso Geronzi, che ha visto pure il presidente di Confindustria Marcigaglia, si sono parlati a lungo. I due negli ultimi giorni avevano evitato di scambiarsi le loro impressioni. Ieri hanno cercato di capire cosa può davvero cambiare ai piani alti dell'establishment industriale e finanziario italiano. E quindi anche come reagire. Che cosa possa essere cambiato lo dice esplicitamente nell'articolo di prima pagina di Libero Vittorio Feltri, che fa una premessa dicendo: non pretendiamo di illuminare il lettore, ci mancherebbe, su questa vicenda siamo ragazzi di bottega giornalistica e niente più. Dopo questa premessa però Vittorio Feltri va al punto e dice: Berlusconi è in difficoltà e loro pensano al dopo. Ci si può fidare di Bersani, Bindi, Franceschini, gente simile? No signori, conviene sparigliare. Come? Così. Cesare Geronzi rappresenta il passato, tra l'altro è legato a Berlusconi. Ed ecco allora si toglie, muterebbero gli assetti proprietari del Corriere della Sera, di conseguenza la linea editoriale del medesimo, La Sette, emittente guidata da Mentana, si affiancherebbe al Quotidiano, La Stampa di Torino, tradizionalmente sensibile agli umori dominanti lassù in alto, si adeguerebbe, il Messaggero di Caltagirone coi vari satelliti cartacei è già lì a disposizione. Insomma, a chi pensa questa gioiosa macchina da guerra? A Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Fiat, ex presidente di Confindustria e della Ferrari. Si obietterà, dice Feltri, ma lui è un generale senza esercito, come può battere avversari esperti organizzati in partiti? Col denaro si fa tutto in fretta, anche un esercito. Ricapitolando, scrive Feltri, un Montezemolo scelto da signori imbottiti di euro, spinto da stampa e TV, aiutato dai giudici, in poco tempo assumerebbe le caratteristiche del probabile vincitore sul cui carro esiste sempre una folla ansiosa di salire. E questo è lo scenario dunque che secondo Vittorio Feltri si profila dietro a questo cambiamento e dietro ai nuovi assestamenti del potere economico finanziario. Tra l'altro Feltri conclude con un PS: qualcuno ha attribuito in questa vicenda un ruolo del ministro Tremonti, lui avrebbe benedetto il defenestramento di Geronzi, a quale fine però si ignora, e noi nemmeno spremendo le meningi comprendiamo perché avrebbe dovuto farlo. Aspettiamo che il ministro si pronunci, ma dubito che apra bocca. Insomma, beh, interessante anche leggere tutti questi articoli della vicenda generali, sono un po' in chiusura, che dire, c'è molto di questa vicenda dell'epilogo dei sindaci sceriffi, la consulta, la Corte Costituzionale ha bocciato le ordinanze, quelle contro gli accattoni, contro i lavavetri, contro i disturbatori, quelle che l'ex sindaco Cacciari qui ai nostri microfoni ha definito quelle ordinanze che ogni tanto i sindaci facevano, così dicevano ai cittadini infuriati: basta che non mi rompi le palle, ti faccio un'ordinanza così levati di torno, tu cittadino che protesti. Ebbene, è la decisione che è venuta per bocciare un'ordinanza di un piccolo comune veneto, Selvazzano Dentro, che però ora vale un po' per tutti i comuni. Infatti i vari sindaci, Alemanno intervistato dal Messaggero, Zanonato di Padova dal Corriere, Marta Vincenzi del Secolo XIX, sindaco di Genova, dicono: beh, insomma, adesso dobbiamo capire che succede di questa cosa. La chiusura è: per cosa è successo tra Baudo e Vespa? Voglio chiudere su questo. Baudo e Vespa. Si è chiuso in anticipo e con molte polemiche 150, il programma dedicato all'anniversario dell'Unità d'Italia. Bruno Vespa e Pippo Baudo mercoledì si sono scontrati duramente. Sul finale dello show Vespa se ne va arrabbiato appena appare la foto di Santoro, così pare. Vespa dice, si infuria, la serata si conclude qui. Va nel suo camerino. Pare che Vespa non gradisse l'eccesso di intrattenimento del programma e così sono cominciate a volare parole grosse tra Claudio Donat Cattin, autore storico di Porta a Porta, e Pippo Baudo, culminata in uno scambio senza precedenti. Pare che Donat Cattin abbia accusato Baudo di comportamento mafioso e Pippo Baudo abbia replicato con uno sputo in faccia all'autore, mancando però il bersaglio. E pare che sia finita così, insomma, in nome dell'Unità d'Italia è finita a sputi in faccia tra Pippo Baudo e l'autore di Porta a Porta. Pare, come pare l'abbia mancato con lo sputo in faccia, dico. Allora, il giornale radio, e poi inizierà dalle 8:20 il lungo speciale fino alle 10. Insieme a Oscar Giannino parleremo di migranti, di immigrazione, di clandestini. Insieme.